A bordo campo di Dario Ricci. Diario Mondiale. Buongiorno da Rio de Janeiro con a bordo campo Diario Mondiale, Coppa del Mondo che muove i primi passi, e allora a bordo campo abbiamo pensato di fare un viaggio per capire se e come sta cambiando il rapporto tra il Brasile e la sua Seleção, in un momento in cui al campionato del mondo si sommano tensioni sociali e politiche nuove e per buona parte sconosciute in questo paese. Abbiamo scelto due interlocutori particolari per incamminarci lungo questo sentiero. Uno è un giornalista di Wall.com, uno dei principali portali web brasiliani. Posizione strategica visto il ruolo fondamentale che la rete ha avuto nelle proteste sociali di quest'ultimo anno. L'altro è un giornalista che arriva da quella San Paolo che è stato l'epicentro delle proteste di queste ultime settimane. E allora partiamo da Maurizio Staiser, giornalista sportivo di Wall.com, che ci aiuta a capire come sta cambiando il rapporto tra i brasiliani e la Seleção in questo mondiale. La Coppa del Mondo arriva in Brasile e buona parte del paese sembra non amare questo mondiale. È così? È una sensazione che abbiamo solo noi europei? Come vive il paese questo momento? Credo che hai una sensazione di, come dire, di desconfianza che se ha fatto troppo spende di denaro per una cosa che non è prioritaria. Questo credo è il principale problema. E una seconda sconfianza se questo denaro è stato bene utilizzato o no. Se sono stato desviate, se si è avuto corruzione, fraude, cose del genere. Ma credo che questa è una preoccupazione in tutti i paesi che abrigano un evento di questo porte. A 4 anni fa in Africa era la stessa sensazione, credo. E un'altra cosa è la Coppa. Credo che sono cose differenti. L'evento in sé sportivo è un evento fantastico. Dopo la Coppa si ritornerà a questa discussione sulle gastos, come si dice, sulle spese che hanno fatto con la Coppa. Ti chiedo, è un tema questo che in qualche modo ha toccato anche l'amore tra il popolo, tra i brasiliani e la Seleção? Cioè è un qualcosa che è arrivato anche a toccare questo rapporto che noi vediamo come sacro, immutabile? Non credo. Ho dimenticato di dire un'altra cosa sulla prima domanda. Hai una questione importante che è anno di elezione presidenziale in Brasile. Dunque è stata un po' politizzata anche questa discussione. Ela è un po' interessa più all'opposizione discutere questo tema, non interessa al partito del governo discutere. Dunque hai una tensione politica al mesmo tempo, molto forte al mesmo tempo, e la Coppa sta sendo utilizzata un po' per inflare questa discussione. Invece dicevamo, questo rapporto d'amore tra il popolo e la Seleção è sfiorato, è intaccato da questo? Non mi sembra. Non credo che ha, come si dice, si rompeu, come si dice, si è rotto qualche cosa, non credo. Anche le parole di Felipe Scolari, che ha detto per noi è importante giocare, non quello che accade fuori dal campo. Davvero un successo della Coppa nella Coppa potrebbe in qualche modo spegnere queste proteste? Non credo, tampoco. Credo che sono cose differenti. Mi pare che la Coppa è la Coppa, va essere una festa, credo, con le proteste che sono normali di avere. E dopo la Coppa si volverà a discutere i problemi del paese, perché 4 mesi dopo c'è l'elezione, e dunque si va a discutere molto che è accaduto per alla Coppa, o per rapporto alle spese, le gasto, eccetera. Anche un'eventuale vittoria quindi non coprirebbe poi i problemi e i temi politici? No, non credo. Il Brasile ha una storia grande con il football, che dei governanti, dei politici tentano di utilizzare il football per loro, ma i risultati sono, non sempre sono, non è una relazione esatta tra vincere una Coppa e vincere un'elezione o viceversa, o perdere una Coppa e perdere un'elezione. Non mi pare che sia tan semplice. Spostiamoci ora a San Paolo, dove troviamo Luiz Gustavo Monaco, giornalista dell'Estado do São Paulo. Con lui proviamo a entrare nelle pieghe delle proteste sociali che stanno accompagnando questa Coppa. Luiz, arrivi da quella San Paolo che in questi giorni ha visto questo clamoroso sciopero dei trasporti. Direi che è un po' l'emblema di questa Coppa che arriva in questo momento così particolare per il paese, no? Sì, sì, è stato un grande casino a San Paolo con questo sciopero, e stanno un po' approfittando che c'è il mondiale, c'è molta attenzione della stampa, giornalisti stranieri arrivano in Brasile per queste proteste, questo sciopero hanno più ripercussioni con questi giorni. A pochi giorni dal mondiale. Ecco, ma questo stato di tensione sta in qualche modo condizionando anche il rapporto tradizionale d'amore che c'è tra il popolo brasiliano e invece la Seleção, la squadra. Da noi hanno fatto molto effetto le parole di Felipe Scolari, che ha detto: a noi interessa quello che accade in campo e non quello che succede fuori. Ecco, è un rapporto che in qualche modo è cambiato? Sì, un po' sì, perché sono quelli che protestano contro il mondiale e per questi il rapporto con la nazionale è sicuramente cambiato, non è più quello appoggio incondizionale di altri mondiali, e come c'è questo mondiale in Brasile stanno protestando per tutte che per quanto ha costato questo mondiale, questo sicuramente ha un riflesso nel rapporto di parte dei tifosi con la nazionale. Influisce anche il fatto che sempre più la nazionale brasiliana è fatta da campioni che giocano all'estero. In fondo ricordo la nazionale dell'82, che per fortuna noi italiani battemmo, sì. Aveva molti campioni protagonisti del campionato brasiliano. Ora, 30 anni dopo, questo scenario è molto cambiato, no? Sì, ma non è cominciato in questo mondiale, già da alcuni mondiali che la nazionale ha più giocatori che giocano all'estero che giocatori qui in Brasile, e questo diciamo che siamo già abituati con questa nuova situazione. Neymar, per esempio, che è la stella, un anno fa giocava qui in Brasile, è andato via da poco, ma non è una situazione nuova per noi. Ma influisce un po', sicuramente è diverso. Se ci faccio un esempio, quando c'è un giocatore di una squadra brasiliana, per esempio un giocatore del Cruzeiro, e la squadra fa un amichevole a Belo Horizonte, ci sono i tifosi del Cruzeiro che lo appoggiano, che lo applaudono, è un po' diverso. Fischiano, per esempio, un giocatore che gioca all'estero, hanno meno pazienza con un giocatore che gioca all'estero di quello che se c'è un giocatore della sua squadra brasiliana giocando. Il risultato di questa Coppa influirà sulle prossime presidenziali brasiliane? È ancora così legato questo vincolo, oppure i problemi del paese sono in fondo altri e non possono cambiare con una vittoria o una sconfitta? No, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. Io credo di no, che il risultato non influenzerà nelle elezioni, ma questo momento di proteste sono molto legati alle elezioni, credo, perché quelli politici di opposizione dal governo Dilma si stanno approfittando di questo momento del protesta per dire no, il governo non funziona, ha promesso un sacco di cose che non sono per il mondiale, se vedete che non sono pronte. Per l'opposizione stanno cercando di approfittare questo momento, ma non credo che avrà una grossa influenza nel risultato delle elezioni. Beh, allora, intanto allora cerchiamo di far parlare il campo e buon mondiale. Auguri per un secondo posto, diciamo, dopo l'Italia. Italia pentacampione in Brasile. Questo. Vediamo, può darsi un Brasile-Italia. Brasile-Italia possono incrociarsi prima della finale. Vediamo cosa succederà. A bordo campo. Diario Mondiale. Ancora dal Brasile con A bordo campo Diario Mondiale. C'è tanta Italia, lo sappiamo bene, in questa Coppa, in un paese in cui sono oltre 25 milioni di discendenti di nostri connazionali. E allora di questo Brasile, di questa Coppa e del suo legame del tutto particolare con l'Italia, abbiamo parlato con l'ambasciatore italiano in Brasile, Raffaele Trombetta. Una chiacchierata a tutto campo tra calcio, politica e business. Sentiamo. Ambasciatore, è un Brasile un po' diverso quello che stiamo conoscendo da rassicurante luogo comune del legame tra calcio e popolo. È un popolo che per alcuni strati ci sta descrivendo un Brasile diverso. Sorpreso lei? No, io non sono sorpreso e non sono neanche dispiaciuto che alcuni luoghi comuni stiano un po' cadendo. Questo era un paese, c'era un giornalista, si chiama Nelson Rodriguez, che è un giornalista brasiliano degli anni 50 e 60, che era un po' il nostro Gianni Brera. E lui coniò questa espressione che era in portoghese a patria da chuteiras. Chuteiras sono appunto le scarpette da calcio. Ecco, insomma, che il Brasile adesso non sia soltanto la patria da chuteiras, ma che sia anche appunto un paese che è più consapevole, insomma, della crescita che ha avuto, ma anche dei problemi e degli squilibri che ha. Tutto sommato non credo che sia un fatto negativo. Difficile immaginarla adesso, ma cosa potrà lasciare questa Coppa del Mondo? Mi rendo conto del paradosso della domanda, però è un appuntamento strettamente collegato a Rio 2016, è un po' un esame che il Brasile vuole superare a tutti i costi, o mi conceda la battuta, malgrado i costi? I costi sono stati ovviamente una dei bersagli delle critiche principali che chi ha manifestato in questo periodo ha appunto rivolto alle autorità del paese. Cosa lascerà questo mondiale? Ancora presto per dirlo, però torno un po' a quello che dicevo prima, potrebbe lasciare proprio questo, magari un ritorno più, come dire, etico, civico, che magari in termini economici, nel senso che un paese e quindi anche un popolo che si diverte ancora e continuerà a farlo, ed è giusto che sia, con il calcio, perché poi lo giocano anche bene tra le altre cose, ma che anche però sa che il calcio non è tutto, quindi se ha dei diritti che magari non sono pienamente rispettati, o comunque insomma delle esigenze che possono essere meglio realizzate, beh, è giusto insomma che questo lo faccia valere. Quanta Italia c'è in questo mondiale, al di là di quello che faranno i ragazzi di Prandelli? È stato anche occasione di business per le nostre imprese, e se sì, in che misura? Beh, in primo luogo c'è tanta Italia in Brasile, perché appunto sono circa 30 milioni i brasiliani con discendenza appunto italiana. C'è tanta Italia anche nei giocatori, perché appunto il nostro campionato è fra quelli più rappresentati, insomma, nelle varie nazionali. E c'è tanta Italia anche in quello che noi come ambasciata abbiamo cercato di fare, perché noi abbiamo e stiamo tuttora realizzando un programma che si chiama Italiana Coppa, che sono circa 100 eventi che stiamo promuovendo in diverse città del paese, del Brasile. Abbiamo cominciato a metà aprile e sostanzialmente concluderemo in occasione proprio delle prime partite del mondiale, in cui stiamo cercando di presentare il meglio dell'Italia, comunque un'immagine la più moderna, la più contemporanea possibile. Quindi artisti come Fiorella Mannoia, come Mario Biondi, abbiamo portato uno straordinario mosaico dai Musei Capitolini di Roma, ma anche design industriale, moda italiana, tecnologia italiana. Abbiamo realizzato in ambasciata un seminario sulla tecnologia con le principali imprese sia italiane che brasiliane. Quindi anche per noi come ambasciata il mondiale è un'occasione per presentare il meglio dell'Italia. C'è tanta simpatia sicuramente per l'Italia, come dicevo prima, in primo luogo perché sono tanti brasiliani che hanno dei legami con l'Italia, nel senso anche proprio che sono discendenti appunto di italiani. C'è simpatia anche sotto il profilo calcistico, perché comunque insomma il nostro campionato è seguito con interesse, lo si conosce molto bene, i commentatori qui per esempio sono molto molto esperti sul campionato italiano, diversi giocatori brasiliani hanno giocato o stanno giocando tuttora nel campionato italiano. E poi sì, in fondo, visti i precedenti, allora tutto sommato non dispiacerebbe arrivare in finale contro l'Italia, magari a noi forse converrebbe giocare nei quarti di finale contro il Brasile. Ci saranno probabilmente delle manifestazioni, delle forme di protesta, su questo credo che insomma siano anche pronti e preparate le autorità del paese, ma addirittura dire che siano a rischio mi sembra assolutamente fuori in questo momento da qualsiasi tipo di previsione. Sa, con la sicurezza, come dire, è sempre difficile stabilire qual è il limite, perché poi se succede qualcosa si è accusati di non essere stati sufficientemente prudenti o previdenti prima. Se non succede niente si dice beh, forse abbiamo esagerato un po' nelle misure da prendere. I mondiali di calcio in Brasile, come in qualsiasi altra parte del mondo, sono un evento appunto mondiale straordinario che attira ogni tipo di interesse e in alcuni casi appunto anche magari non positivo, comunque non benevolo, quindi è giusto che ci siano delle misure di sicurezza. Poi sulla misura come dire, insomma, sul livello di queste misure di sicurezza, beh, questo però lo lasciamo agli esperti ovviamente. Al di là di queste proteste di cui si parlava prima, ma i brasiliani poi sono molto ma molto appassionati di calcio, come sappiamo tutti e come anche giusto che sia. Se dovessero scegliere una seconda squadra, io credo che l'Italia ha buone probabilità di essere la squadra preferita appunto dai brasiliani. Credo che forse quella che meno tiferebbero è l'Argentina, insomma. Ma questo... Ogni partita dell'Italia ha registrato una richiesta per 1200-1300 biglietti venduti di tifosi italiani, che non è un dato all'estero da poco. Che vuol dire? Ci sono tanti italiani, la comunità qui è forte, c'è tanta attesa comunque anche per i discendenti degli italiani, cioè c'è un affetto particolare, ci sarà anche un affetto particolare dentro gli stadi? Ci sarà sicuramente un affetto particolare, non solo da parte appunto degli italiani, ma anche appunto dei brasiliani che hanno legame con l'Italia, ma direi anche con i brasiliani che sono brasiliani e basta. Rubandole ancora un istante, ambasciatore, quali sono, e tornando un po' al suo ruolo diplomatico, quali sono le criticità per la comunità italiana qui in Brasile, quali ancora i legami forti anche dal punto di vista commerciale con l'Italia? Beh, sul piano commerciale abbiamo una presenza estremamente forte. Noi abbiamo come ambasciata, abbiamo calcolato al momento, ma questo poi è un lavoro, come dire, dinamico, quindi può ulteriormente essere raffinato, circa 850 stabilimenti produttivi italiani qui in Brasile, che ovviamente vanno da imprese come Fiat, Pirelli, la Team, Enel Green Power, Ferrero, anche a tante piccole e medie imprese. Quindi quella lì sicuramente è una delle forze dell'Italia qua. È una forza dell'Italia anche la cultura, perché è ancora molto, molto ammirata l'Italia per questo. Quindi i brasiliani quando pensano all'Italia pensano alla cultura, pensano al ben vivere, pensano anche a mangiare bene. Insomma, poi questa è anche una parte anche del carattere brasiliano. Criticità francamente non ne vedo molte, gli italiani sono sparsi un po' in tutto il paese, sono molto forti a San Paolo dove c'è la maggiore concentrazione appunto italiani, sono forti anche nel sud, a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, appunto poi c'è anche lo stabilimento Fiat, quindi insomma ovviamente è una collettività vasta, quindi si potrebbe anche fare molto di più nei loro riguardi, ma sostanzialmente non ha grossi problemi. Per A Bordo Campo Diario Mondiale anche oggi è tutto. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito radio24.it, da dove potete anche scaricare il podcast della trasmissione e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Un grazie ai tecnici che tra Milano e il Brasile hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo Diario Mondiale torna domenica prossima sempre alle 16.30 e il sabato mattina in replica alle 6.30. Un saluto dal Brasile da Dario Ricci.